4 mattino di Alessandro Milan. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Deux explosions et les vitres qui sont en haut sont toutes descendues sur nous. Et il y avait une dame qui descendait sur l'escalator. Mi trovavo tra la fila 4 e 5 dove c'è stata la seconda esplosione. Tutti i muri che cominciavano a cadere, tutti i plafoni che andavano a terra, l'aeroporto abbastanza pieno, in una volta pure tutti i pavimenti, tutto rotto. Quel momento ho avuto una paura immensa e ho cominciato a gridare con altre persone. Non è dunque il tempo degli sciacalli, ma non è neanche il tempo delle colombe. Ci vuole un patto europeo, un patto per la libertà e la sicurezza. Non è normale, bisogna sostenere le forze dell'ordine in un'operazione di bonifica e pulizia a tappeto, via per via, quartiere per quartiere. Credo che ci dovremmo abituare sempre di più, che siano gli aeroporti, che siano altri luoghi di aggregazione, però siamo in guerra. Vada fino in fondo, allora, stavolta l'Unione Europea. Occorre investire in una struttura unitaria di sicurezza e difesa, unitaria. E allora, cari ascoltatori, ieri eravamo in diretta alle 8:10 quando si sono sparse le prime notizie di queste due esplosioni all'aeroporto di Bruxelles. E siamo andati poi a dormire con quelle immagini negli occhi, immagini che poi ritroviamo nelle foto dei giornali di oggi, impressionanti, no? Quando ci sono questi attentati, a me colpisce più che leggere le solite articolesse, le solite analisi, vedere le foto, le immagini di gente colpita, di gente disperata. Ce ne sono due, soprattutto una che viene riproposta praticamente da tutti i giornali in prima pagina, due donne colpite, una seminuda per l'esplosione, disperata, i capelli tutti bianchi, grigi per la polvere. E poi un'altra immagine di un uomo a terra che chiede aiuto con la mano, come dire aiutatemi, e lì a fianco un uomo e una donna, sono marito e moglie che si sono ritrovati dopo i momenti di concitazione, si abbracciano quasi in quel momento, incuranti del fatto che ci sia a fianco una persona disperata che chiede aiuto con la mano protesa a dire io sono qui a terra ferito, aiutatemi. Le immagini di un'Europa colpita, Belgio, abbiamo iniziato con l'inno del Belgio, e Europa, l'inno dell'Europa, l'Europa, il Belgio colpiti. Con i tanti dibattiti, anche con toni soliti, vi cito, l'altra volta si è criticato molto il titolo di Libero, sentite qui il titolo del giornale: cacciamo l'Islam da casa nostra, ecco, anticrociati cercansi, per il giornale. E poi i dibattiti, come fare, il rischio anche per l'Italia, inutile negare, dai, ci svegliamo e sempre ci pensiamo a lungo, ma insomma può capitare anche qui da noi, siamo pronti, siamo preparati. Eccoci qui, con queste domande iniziamo alle 6:34 minuti, 24 mattino, cari ascoltatori. Oggi magari si inizierà con un sorriso sulle labbra in meno, e questo succede nella vita. C'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, come sempre c'è Lorenzo Nespoli in redazione. Come il mercoledì insegna, c'è anche la nostra cara Paola Saluzzi. Buongiorno, Paoletta. Alessandro. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Ovviamente in diretta da ieri, anche voi sì, su Sky. In diretta da ieri anche noi, minuto per minuto, come ovvio che sia. E pensare a chi ha preso il secondo vagone della metropolitana, perché magari negli altri non ha trovato posto, magari quello era più libero e allora hanno detto: sai che faccio, vado in quello. Pensare alla vita di tutti i giorni che è segnata da questa che è una guerra, e c'è. Pensare al fatto che o l'Europa, e speriamo, perché non so quanti altri disastri servano, si dota velocemente di una linea comune, di sicurezza comune, di garanzia comune della sicurezza, oppure continueremo a pensare che ci sia una persona da una parte, che l'estradizione debba avvenire, sì, no, oppure no, insomma. Si va un po' per come dei cani sciolti. Purtroppo questo un po' succede presto. Anche uno dei motivi per cui poi non si riescono a fermare in questa guerra non convenzionale queste persone. Saluto anche Luca Dini. Ciao Luca, ben ritrovato. Buongiorno, direttore di Vanity Fair. Eccoci qua. Allora, apriamo il Parlamento anche oggi, perché non ci dobbiamo fermare e quindi ci siamo anche oggi. Come dire, ci sono tanti aspetti anche comodi, scomodi, se vogliamo affrontare. Ecco, uno tra questi adesso va di moda, per carità, sono il primo a dire, a criticare che in Belgio qualcosa è successo così, per il verso sbagliato, no? Tutti i giornali raccontano che l'intelligence belga non è riuscita a fermare, insomma qualche falla c'è stata, però non so, adesso dire che è tutta colpa del Belgio mi sembra un po' strano. Ricordiamo per esempio, Luca, ricordiamo che Abdeslam, quello che è stato beccato dopo aver fatto parte del comando di Parigi, quando è fuggito dalla Francia è stato fermato, credo, un paio di volte a controlli di polizia in macchina. Prego vada. Certo, non si sapeva che fosse lui in quel momento, no? Però, cioè, non è che adesso il Belgio sono tutti incapaci, mentre tutti gli altri sono dei furbacchioni in grado di fermare i terroristi, mi sembra, No, ma poi devo dire, siamo tutti capaci a fare l'intelligence a casa degli altri, quindi secondo me è un po' un discorso da bar, assolutamente. Di certo, da evitare, anche perché insomma con scaramanzia bisogna dire, cioè, insomma, speriamo che non succeda mai da noi, ma cioè, bisognerebbe essere sicuri di saper fare meglio, e poi che cosa si fa, cioè non è che non si può evitare tutto. E non sappiamo quante cose sono state sventate, non sappiamo. Sì, anche questo è vero, non ce lo vengo certo a raccontare. Di certo c'è la solita questione, Paola, una questione come sempre delicata, no? Io ho letto il titolo del giornale, perché in realtà è il titolo, se vuoi, più provocatorio di oggi, è il rapporto tra noi e l'Islam, un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Poi si può dire non è l'Islam, è un Islam distorto, eccetera, ma insomma, con questa problematica dobbiamo fare i conti, no? Che sia distorto non v'è dubbio, perché chi dietro, certo, l'idea di un credo entra in un aeroporto con i carrelli, con le valigie cariche di esplosivo e di chiodi, non si esprime in termini troppo religiosi, insomma. E se crede che la religione sia quella, sta pensando un'altra cosa, insomma, su questo non v'è dubbio. Certo, diventa tutto più difficile, su questo non ci sono dubbi. Andare a cercarli casa per casa, ma questo io leggerò con cura e attenzione adesso tutti questi editoriali, e dobbiamo farlo, e per lavoro e per non lavoro, no? Per comprendere meglio, diventa più difficile. Forse la cosa che aiuterà di più sarà una forma di collaborazione, vedi, quella collaborazione che non c'è stata in Belgio, perché non tutti quelli che hanno nascosto Salah e chi per lui sono terroristi, intendo dire sono pronti a fare operazioni di terrorismo, ma sono pronti a fare operazioni tribali, perché questi sono comportamenti tribali alla base, cioè io so che tu ti devi nascondere, so che cosa hai fatto, so che ti devi nascondere, ti nascondo. Ti protego. Allora passi di casa in casa. Eh beh, lì un problema, lì un problema col Belgio invece c'è, è raccontato in tutti i reportage, è raccontato. Cioè, diventa tribalità, e la tribalità è difficilissima da scardinare. Difficilissima. Perché quello diventa il problema, vero? Vero, prima ancora è chiaro, quando si parla di Islam si tira una riga e si fa il comune denominatore. E questo lo sanno molto bene anche i fedeli islamici, gli uomini e le donne di fede islamica, che nulla hanno a che spartire con questa gente. Purtroppo. Purtroppo sì. Il problema è che lì un problema col Belgio c'è, è innegabile, perché è quella che viene definita Molenbeek, cioè questa grande città o parte della città di Bruxelles. È un problema con cui fare i conti. Come, vedendo tra i tanti articoli che ci sono sui giornali riguardanti l'Italia, non è che non si può far finta che le cose accadano. Guardate che questo lo scrive Repubblica, non un giornale magari orientato più a destra, eccetera. Repubblica, pagina 11, Fabio Tonacci, racconta dello sbarco a Pozzallo tramite il solito canale, cioè i barconi, eccetera, di una persona, si chiama Murad El Ghazawi, è stata beccata con una sorta di passaporto ovviamente finto, dell'ISIS, un lasciapassare ovviamente scritto in arabo, per dire aiutate questo fratello perché è stato combattente, una sorta di aiuto che la comunità islamica poi deve dare. Come immagino quelli lì di Molenbeek in Belgio, a questa persona, perché è un combattente, è stato 2 anni, gli hanno trovato sui telefonini classiche immagini, attacchi, uso di armi, addestramenti, eccetera. Cioè, Luca, succedono queste cose. Io anche ieri un po' ho battagliato su Facebook contro chi, io li chiamo un po' i perbenistelli, fanno finta di non vedere. Dico, ma no, ma il problema sono le periferie degradate, ma i problemi sono altri. No, c'è un problema legato anche a questo indottrinamento e legato a una religione specifica. Sì o no? Si può dire sì? C'è un problema, però è legato al problema delle periferie degradate, cioè, se no siamo ipocriti se scendiamo le due cose. A parte che giustamente parlate di tribalità, ma vorrei ricordare che noi abbiamo un problema di tribalità, per dire, con l'Andrangheta, non è che sono tutti islamici quelli che fanno solidarietà tribale, omertà, eccetera. L'Andrangheta, la mafia, voglio dire, sappiamo benissimo cosa sono e ce le abbiamo a casa nostra, e non sono islamici. Per quanto riguarda, per esempio, un mio collega è andato ieri a Baranzate, periferia di Milano, sì, dove credo ci sono quasi tre quarti di immigrati, e lì è in atto un processo di integrazione che, grazie al cielo, credo farà in modo che quella non diventi Molenbeek. Cioè, Bruxelles va avanti grazie alla presenza degli immigrati, che si occupano sostanzialmente di tutti i lavori sotto una certa fascia di reddito, bisogna dirlo, perché sarebbe paralizzata se non ci fossero gli islamici. Quindi è un po' un discorso del cavolo, anche perché c'è mandare via gli islamici. Ricordiamo che molti di questi bastardi, scusate, sono nati a casa nostra, hanno il nostro passaporto. Sì, non equivochiamo. Cioè, viene anche da università in Inghilterra, attenzione, voglio dire. No, ma è chiaro. Ma non equivochiamo su questa cosa. Cioè, il titolo del giornale o quell'invito, cacciamo l'Islanda a casa nostra. Ma non rappresenta neanche per mezzo millesimo di secondo quello che penso io, quello che dico io. Poi è ovvio che c'è un problema. Esatto. Ma mi sembra che ci sia. Magari siano magari i siriani che scappano, che rischiano di annegare, e annegano scappando esattamente da quelle persone lì, e che vengano criminalizzati perché in mezzo a loro ci si piazzano di quelli. Lo trovo paradossale, no? Come dire, io su questo sono d'accordo, infatti non li vorrei mai cacciare. Vorrei anche che però un po' più di persone prendessero coscienza che c'è questo tipo di problema, cioè che assolutamente che, c'è, che anche non... quando ho visto quelle donne che inveivano contro la polizia, pensavo, beh, certo, prendetele, appunto, mettetele su un barcone e mandatele da qualche parte, appunto, quelle che a Molenbeek, mentre la polizia stava a Bleslam, lanciava loro pietre. Per carità, succede anche, come dici tu, in contesti italiani ben radicati certamente, ma infatti non è nulla di giustificabile. Dirò una cosa scortese ora e lo chiedo a voi: il pianto di Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea. Per carità, è umano, oggi Federica Mogherini scrive su Repubblica il perché di quel pianto, spiega che dopo quel pianto umano continuerà a lavorare da oggi senza un minimo di incertezza. Però io dirò, adesso ci sono anche analisi oggi sui giornali a dire, ma questo pianto però dimostra proprio questa, un po' questa debolezza delle istituzioni di fronte a un qualcosa del genere, una debolezza che forse, lo so che è difficile, ma non va ostentata in questo momento. Io dirò questa cosa scortese, forse a questi livelli bisogna anche riuscire, ricordo anche il caso della Fornero, a non piangere, perché non è quello che devi fare. Con tutto che mi rendo conto di dire una cosa scortese. Comunque, Federica Mogherini, poi vorrei il vostro parere. I will stop here, you will understand this. Today is a difficult day. Thank you very much, thank you for your kind words, thank you for... Era in Giordania, E poi le immagini, insomma, la fanno vedere Paola che piange proprio in maniera evidente, è l'altro rappresentante dell'Unione Europea. Non so, sono troppo cattivo? No, sto pensando... diverse dalle lacrime della Fornero, non so come dire, ecco, sì, non no, è chiaro, che le lacrime contesti, abbiano peso, i contesti sono diversi, è per dire il momento. Era un contesto un po' differente, anzi completamente differente. Io non la colpevolizzo e penso che ci siano cose non più importanti. Comprendo il tuo discorso, cioè lì sei il rappresentante, per cui se tu piangi passi una visione, passi un'immagine di debolezza. Va bene, è successo, andiamo avanti. L'importante è quello che si fa dopo, non tanto l'immagine che riesce a rapire una telecamera piuttosto che una macchina fotografica. L'importante è quello che si fa dopo. Dopodiché, non è da piangere. Sì, non è quella la risposta dell'Europa, ovviamente, però, non sto dicendo, però non lo so, un po' più di preparazione anche in questo ci vuole. Luca. Ma non so, guarda, io preferisco essere rappresentato da qualcuno che piange che da qualcuno che spara cavolate. È una cosa umana che a me, secondo me, non va né nascosta né criminalizzata né penalizzata. Preferiamo Trump, non so, voglio dire. No, ci sono state le lacrime di Obama, voglio dire, se piange e si riga di lacrime il volto del presidente degli Stati Uniti, chiaramente di un presidente che eviti di fare il guerrafondaio e il dottor Stranamore. Può succedere. Non voglio fare polemica, ma secondo me se non fosse donna non staremmo qui a parlare. Dici? Lo dico appunto anche no, non di dico Obama. Te, però non ci sarebbe tutta questa discussione. No, oggi molti giornali la rappresentano così, cioè l'Europa, lei è l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, viene anche rappresentata con un momento di umana debolezza, insomma, di fronte a questi attentati. Però è veramente una ferita al cuore dell'Europa. Cioè, non c'è dubbio che quello che conta è quello che si fa da oggi, se si fa qualcosa, non certo. Cioè, in quei 10 secondi devo andare a dare le informazioni sul traffico, ma rientriamo subito dopo, state con noi. Eccoci qua, dai, oggi non c'è la segreteria con le vostre simpatiche chiacchiere, le vostre idee, le vostre opinioni al 349-238-6666 se volete invece dirci cosa ne pensate via sms, via whatsapp. Siamo con Paola Saluzzi di Sky, con il suo Sky TG24 pomeriggio. Tra l'altro disastro, ieri mi è saltato il decoder Sky, quindi non ti posso vedere né ieri né oggi. Vedrò di ripararlo, cara Paola. Immediatamente. No, esatto. Vorrei fare anzi questa cosa da lobby, modelli a casa, 50 decoder subito, grazie. Così posso. Se proprio posso utilizzare questo canale. E siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Oh, ieri anche Crozza. Io capisco, pensate Crozza, Ballarò che di solito esce, fa le sue battute, eccetera. Insomma, la difficoltà anche di affrontare questo momento Crozza, lo sentiamo. In giornate come queste mi sento come Marilyn Monroe quando la catapultavano in prima linea in Corea per tirar sul morale le truppe. Ma come si fa a far ridere quando siamo in guerra? Perché siamo in guerra? La politica non ce lo dice. Un po' attacchi tu, un po' attacco io, con modalità diverse dalle nostre, perché noi attacchiamo coi droni, loro coi trolley, loro fanno attacchi terroristici, noi facciamo raid. Vabbè, insomma, qui è qui il crozza. È un po' colpa dell'Occidente. Anche io questa cosa, insomma, è colpa anche nostra, no. Luca. È colpa nostra. No, tu insomma, dici. È molto semplicistica come spiegazione. Esatto. Cioè noi... Poi responsabilità ci sono, però dire che questa è la risposta ai droni, cioè come quasi giustificata, lo trovo. Esatto. No, esatto. Questa è una volontà. Poi ci sono i droni. Anche perché uno è che è una volontà che inizia a sottomettere e a massacrare le proprie persone laggiù. Voglio dire, anche perché ricordiamo che quello che è successo ieri a Bruxelles, in Iraq, in Siria, eccetera, succede tutti i giorni con numeri molto superiori. Sì, è successo anche in Turchia. In Turchia, non è che lo fanno, certo, perché ci sono i droni. È successo in Turchia, paese islamico, pochi giorni fa, e più volte, e quindi è chiaro che succede ovunque, e muoiono soprattutto anche nei loro paesi, soprattutto proprio numericamente parlando. In Turchia, dici bene, Alessandro, fai bene a sottolinearlo, è successo non è successo una volta. Non è successo una volta. Attenzione. Poi uno accende. No, vi faccio sentire questa, perché poi uno accende la TV ieri un pochino scanalavo, certo, non sui canali di Sky, perché il decoder. Però insomma, scanalavo e a un certo punto vado e capito su Quinta Colonna. E su Quinta Colonna appare Gasparri insieme a Luca Telese. Iniziano un pochino a battagliare. Luca Telese a un certo punto fa una domanda a Gasparri tranquilla, cioè come dire: ma scusa, visto che parli di musulmani, l'islam, dimmi quanti sono i musulmani in Europa. E Gasparri chiaramente non lo sapeva, lì per lì chiamato, è iniziato a capigliarsi su questa cosa. Ed ecco, così non sappiamo se l'Europa deve rispondere come abbiamo visto fino ad oggi, chissà se invece i nostri politici e i nostri analisti devono rispondere a questi drammi con dibattiti del genere. Tu, fai il censimento, guardi la lingua ai cattivi, li chiudi in un lager e li ammazziamo tutti. Orban, 53 del Partito Popolare Europeo ha messo delle barriere. Ma fa bene la Macedonia. Fammi capire, allora ti diamo i pieni poteri, ti metti la feluca, faccio un blocco la mano come Napoleone, respingo i gommoni. E fai il campo, non li faccio neanche entrare. Col filo spinato. I gommoni. Non li faccio neanche entrare. Allora ti faccio una domanda: quanti sono i musulmani in Europa secondo te? Sono diversi milioni, sicuramente. Quanti? Quanti? Che vuol dire? Sono molti. Milioni, non sai di che cosa parli. Sono quanti, più di quelli che noi possiamo sopportare. Più o meno. Sai di che cosa stai parlando? Sono nelle nostre terre. Vabbè, ora urli perché non sai quanti sono. Professor Telese che interroga. Per una preparazione. Guarda, da compito delle elementari. Io sono Saputello. Ma terrorismo. Saputello, tu difendi. E lì è partito. Tu difendi i terroristi. Tu sei un comunista. Tu sei un fascista. No, fascista forse non è partito. Sono andati avanti un minuto e 40 più o meno, così. Senti. Ecco, devo dire, molto meglio Marilyn Monroe. Ecco, appunto. Ma non è mica finito. È veramente... Sì, no, sono andati avanti. Ecco, questa è la nostra risposta, perché nei dibattiti politici succede. Non da Paolo Saluzzi, ti piace questo? No, succedono talvolta. Io dico sempre parlare uno alla volta, per carità, ma insomma, al di là della situazione. Non tre alla volta come Biscardi. Rossiniana, ecco, non, ma è anche naturale che scattino questi confronti a caldo. Sì, sì. È naturale, sì. Alessandro. È allora, naturale. Comunque, no, ma certo, alle tre ovviamente tu te ne occuperai, no, anche noi. Ci occuperemo anche con degli analisti, ecco, soprattutto per cercare di capire per capire intendo dire, purtroppo capire non è risolvere, ma capire è già una parte dovrebbe essere una parte della soluzione. Ma come no? Comprendere il perché, comprendere come tutto questo sia possibile, perché è chiaro che adesso si alzerà ulteriormente il livello di controllo. Fino a ieri eravamo sicurissimi lo so, di non avere esplosivi a bordo degli alerta. Aerei. Sì, adesso la sicurezza la devi mettere addirittura fuori dall'aeroporto. No, cioè, in Belgio ricordo questo, c'era la massima allerta, sì. E invece è successo quello che è successo. C'era la massima allerta, esatto, perché dopo che hai preso il numero uno, sedicente numero uno, comunque quello che cercavi, c'è la massima allerta. Massima. Intanto, visto che la vita continua, direttore, c'è anche Vanity Fair in edicola, perché c'è Elisa, oh, che ma bella. Perché ha fatto un nuovo disco, se non sbaglio? Sì. ha fatto un nuovo disco, va bene. Personaggio, va bene, tematiche di vario tipo, come sempre. Io qua mi devo fermare, cari amici, ma rimaniamo a tema, a parlare di questo tema. La segna stampa è tutta dedicata più o meno a queste tematiche. Approfondiremo poi con Oscar Giannino anche noi, insomma, l'Europa, Bruxelles colpita. Dai, vi ringrazio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, anzi 7:20 e 40 secondi per la precisione. E siamo pronti a leggere i giornali che, come potete immaginare, oggi aprono tutti e dedicano pagine e pagine alla tragedia di Bruxelles, tragedia europea. E allora, dai, tuffiamoci in questa lettura. Mercoledì 23 marzo, una rapida carrellata di titoli, ovviamente tutti dedicati alla strage di ieri, l'attentato a Bruxelles, doppio. L'ISIS colpisce l'Europa, 31 morti a Bruxelles, questo è il titolo del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, Europa sotto attacco. La guerra all'Europa, ISIS, la guerra all'Europa, questo è il titolo di Repubblica. Il Messaggero, attacco al cuore dell'Europa. Per la stampa, bombe kamikaze, Bruxelles brucia. Per Avvenire, il sangue dell'Europa. Per l'Unità, la guerra a Bruxelles. Il Fatto Quotidiano, invece, i kamikaze di Bruxelles lasciati liberi di uccidere. Poi arriviamo al Manifesto, come in guerra, c'è una foto di una città blindata, militarizzata, fino ad arrivare ai titoli più provocatori, come di consueto Libero, il giornale, questa volta Libero, che titolò il famoso Islamici bastardi, oggi titola Se questi non sono bastardi, mentre se volete il titolo più forte è quello del Giornale, Cacciamo l'Islam da casa nostra, questo è l'invito perentorio del direttore Alessandro Sallusti. Vogliamo partire dalla cronaca. Intanto io dico, a parte le chiamo anche le articolesse, le analisi, tutti adesso sanno tutto. Tutti sanno tutto adesso. Notate questa cosa, che tutti oggi sui giornali sanno tutto e raccontano analisi profonde, dotte, impegnate. Io in questi casi mi concentro sulle foto, sulla cronaca, su quello che è successo. Le foto raccontano tanto. La foto che viene scelta praticamente da tutti i giornali per aprire è quella di due donne appena colpite dall'attentato, evidentemente in aeroporto. Una è sotto shock, lo si può intuire dal volto, è seminuda dall'esplosione, anche i piedi nudi, i capelli grigi coperti dalla polvere, lo sguardo verso terra un po' spaurita. L'altra al fianco ha la mano totalmente insanguinata, ma un telefono in mano, evidentemente per cercare di reagire subito e telefonare qualcuno e chiedere soccorsi. Questa è la foto di queste due donne sopravvissute alla strage in aeroporto che più mi ha colpito. La cronaca, dicevo, Marco Imarisio, sono a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. 7:51, kamikaze al check-in, 9:11, un boato nel metrò. Racconta Imarisio, alle 3 del pomeriggio dalla porta sul retro della stazione di Melbeck esce una barella con sopra un corpo chiuso in un sacco di plastica nero. Abbiamo finito, dice Jean-Henri Voss, uomo massiccio che indossa il giaccone della Croce Rossa. Non c'è più nessuno là sotto. L'ultima vittima di questa giornata infame viene caricata su un furgone che parte percorrendo lentamente in contromano la strada. Oltre il cordone di sicurezza, ferma al centro di un piccolo quadrato di prato, una donna indossa solo un maglione. Aspetta qualcuno, qualcosa. Io da qui non mi muovo, dice. Gli agenti dei corpi speciali coi volti coperti dai passamontagna scuri che allontanano giornalisti e curiosi le passano intorno senza avere il coraggio neppure di rivolgerle uno sguardo. A una settimana dalla perquisizione in una casa semi-abbandonata nel comune di Forest, che ha fatto precipitare gli eventi portando alla cattura di Salah Abdeslam, la paura di una ritorsione si era ormai allentata, lasciando spazio all'orgoglio del piccolo Belgio per aver finalmente dato il proprio contributo dopo tante critiche e accuse di essere la culla del jihadismo. La notizia della prima esplosione arriva mentre al telegiornale andava in onda immagini di pentole e coperchi. Sta succedendo qualcosa a Zaventem, ha detto la conduttrice. Sono le 7:51. Due uomini si aggirano nel salone partenze. Uno di loro si allontana con uno scatto e all'altezza dei banchi 8 e 9 il suo complice si fa saltare in aria. Alfon Lian, un portantino, stava sistemando dei carrelli. Dice: dietro di me ho sentito parole in arabo non recitate ma gridate. Poi una detonazione enorme e mi sono buttato a terra. La sala si riempie di fumo. Dai soffitti si staccano i pannelli di plastica che cadono addosso a morti e feriti. Le autorità diranno che in quel momento all'interno dello scalo c'erano almeno 900 persone. Corrono tutte verso l'unica via di fuga, ma è una trappola. All'altezza dello Starbucks, davanti alle grandi vetrate della facciata, un altro kamikaze si fa esplodere non appena viene superato dai primi fuggitivi. Anna Melchiori, ragazza milanese che lavora come cameriere in un ristorante, era appena entrata per imbarcarsi sul volo low cost delle 8:30 a Malpensa. Ho sentito uno schiocco e poi una specie di vento che mi ha colpito. Sono riuscita a restare in piedi, ma intorno a me gente scaraventata a terra e cercava di allontanarsi strisciando. Questo all'aeroporto, poi la metropolitana. Anche qui c'è una straordinaria foto, drammatica foto, che secondo me racchiude tutto questo momento, e cioè il dopo attentato in metropolitana. Siamo su una strada esterna della metropolitana, un uomo a terra, sanguinante, tende la mano verso l'altro, verso due persone che sembrano incuranti di lui, si abbracciano, sono marito e moglie, si scopre poi che si sono ritrovati dopo gli attimi di concitazione, quindi provano questa gioia, sono illesi loro e quasi non si curano di quest'uomo che da terra lancia verso di loro idealmente la mano protesa, come dire aiutatemi, sono ferito. Racconti sempre del Corriere di testimoni, di gente che dice di aver visto corpi senza testa, persone senza arti. Ovviamente succede quando c'è un attentato di questo genere, soprattutto in un luogo chiuso come la metropolitana. Le vittime ancora per la maggior parte sono senza nome. In realtà si conosce l'identità di una donna peruviana, 36 anni, Adelma Marina Tapí Ruiz. Era all'imbarco con il marito e due gemelle. A un certo punto le due gemelle si allontanano scappando. Chiunque ha portato dei bambini a fare un check-in sa cosa vuol dire quando non stanno lì un attimo. Il papà si allontana anche lui a rincorrere le gemelline, quindi si stacca in quel momento dalla madre che invece è vicino al kamikaze e lei muore. Gli altri si salvano. La seconda vittima, il primo corpo a ritrovare la sua identità, è quello di un israeliano, Yosef Haim Ben Haya Sara Gittel, che con un gruppo di ebrei Hasidim avrebbe dovuto prendere poco dopo lo stesso volo della peruviana. E per il resto, per il momento, ancora identità che non si conoscono e si conosceranno nei prossimi giorni. Ora non si conoscono, anche perché potete immaginare come siano stati ritrovati i corpi. Gli attentatori. E beh, c'è un'altra foto, questa è importante, ancora più importante, diffusa dalle autorità belghe, perché in questa foto si vedono presumibilmente i due kamikaze, spingono un carrello, hanno un guanto nero mentre l'altra mano è nuda, probabilmente quel guanto copre i fili del detonatore, i fili e il detonatore. E poi c'è un terzo uomo vestito invece in chiaro, in bianco, con un giubbetto e un cappello nero. E questo è l'uomo, probabilmente il terzo uomo, da cui tutti i titoli: caccia al terzo uomo con il cappello. La polizia belga che dice: lo conoscete? È il complice dei kamikaze. Carlo Bonini e Giuliano Foschini su Repubblica, pagina 8. Così ha colpito la cellula belga di Salah Abdeslam. Ci vorrà del tempo per venire a capire e venire a capo delle molte domande che pone la strage di Bruxelles. Non c'è dubbio che si tratta di quella parte della rete, quella che ha colpito, creata dal califfato tra l'estate e l'autunno dello scorso anno nel cuore dell'Europa. Abdelhamid Abaoud, ring leader delle stragi del 13 novembre, morto nel blitz di Saint-Denis, aveva confidato prima di morire che i martiri che l'ISIS aveva inviato in Europa lungo la rotta balcanica erano 90. Inoltre, informazioni in possesso della nostra intelligence accreditano la possibilità che ai superstiti di quella originaria rete, 90, 30 però sono stati neutralizzati, si siano aggregati anche criminali comuni e foreign fighters appena rientrati dalla Siria. Scrivere pubblica perché agire ora per vendetta dell'arresto di Abdeslam? In realtà la pianificazione è durata di più, ma certo la decisione di accelerare i tempi sarebbe la verosimile conseguenza del blitz belga del 16 marzo scorso, durante il quale muore Mohamed Belkaid, algerino, 35 anni. Chi sono i due kamikaze ritratti in questa foto? Sarebbero i fratelli Khalid e Ibrahim el-Bakrawi, jihadisti e prima ancora criminali comuni. Certo, scrive Repubblica, non si comprende perché dopo l'arresto di Salah il livello di allerta in Belgio sia rimasto a 3 e non sia stato innalzato, nonostante molti indizi indicassero una minaccia imminente. Addirittura, se saltiamo su Repubblica, su Libero, scusate, Franco Bechis racconta il Belgio era stato avvertito da un confidente in Marocco. Il Marocco aveva segnalato l'attacco da 7 giorni. L'informativa che era arrivata da Rabat parlava di un pericolo per gli aeroporti e anche per le centrali atomiche, ma Bruxelles non si è mossa. Questa è l'accusa del Belgio, come oltre all'accusa al Belgio ci sono le accuse all'Unione Europea, quella di non sapere agire. E da qui, e apro una parentesi, oggi l'articolo che mi fa pensare, lo evitiamo perché sono tutti questi messi insieme, ne potete trovare decine. Da qui ripartiamo tra un attimo dopo la pubblicità. Se sai che al mattino c'è Alino, se c'è il mattino, al mattino c'è Alino, Alino, quel di Radio 24. Eccoci qua, sono io, cari ascoltatori. Allora, siamo qui per i vostri messaggi al 349-238-6666, anche via WhatsApp, le vostre sigle, e siamo a continuare a leggere ovviamente i tanti articoli relativi alla strage di Bruxelles ieri. Allora, le lacrime di Federica Mogherini. L'alto rappresentante per la politica estera europea era in conferenza stampa ad Amman in Giordania quando è stata travolta da un momento di emozione nel ricordare quello che stava succedendo e poi ha sospeso la sua presenza pubblica, la sua comparsa pubblica. Ora ci sono già le critiche. Certo, è una reazione umana, la stessa Mogherini oggi ne scrive su Repubblica e tra poco vedremo. Le reazioni critiche però sono di coloro che dicono due cose sostanzialmente. Primo, si dà l'immagine, se volete, ai nemici, ai terroristi, all'ISIS, proprio l'immagine che sperava di vedere, cioè vedere una rappresentante, la più alta rappresentante della politica estera europea in questo momento, in lacrime, debole, fragile, certo un'umana fragilità, ma in un'era in cui contano le immagini, contano anche le rappresentazioni pubbliche, questo è un punto sicuramente su cui molti terroristi, e infatti sul giorno si racconta che alcuni su Twitter hanno approfittato subito dicendo non piangere ora, risparmia le lacrime finché, fino alla conquista di Roma, la tua terra. E poi alcuni giornali mettono appunto in luce, per esempio Il Giorno, in un commento a pagina 10, il fatto che ci sono momenti, leggo, in cui chi ha responsabilità collettive non può, non deve lasciarsi prendere dalle emozioni, conservando la lucidità necessaria per farsi carico dei problemi di tutti. Ecco perché il pianto di Mogherini è sembrato fuori posto perfino da alcuni compagni del PD, i quali avrebbero preferito trovasse parole per rassicurare. Comunque, questo è accaduto e Federica Mogherini ne scrive su Repubblica, pagina 4, «Non è mia abitudine usare o mostrare emozioni in politica, ma in una giornata come questa tutti hanno provato un dolore enorme ed è semplicemente umano che questo dolore si possa manifestare. Nei comunicati scriviamo che i nostri pensieri vanno alle vittime e ai parenti. A volte può succedere che questo si esprima in modo meno ufficiale, ma questa è solo una reazione umana. Poi c'è il lavoro per costruire soluzioni ai problemi enormi del nostro tempo. Per questo ho deciso di continuare la visita in Giordania, pur restando in contatto con Bruxelles». e domani, cioè oggi, sarò alla prevista riunione della commissione confermata con Juncker. Insomma, Federica Mogherini che spiega perché questo momento di debolezza e poi va avanti. Ora, le accuse al Belgio. Le accuse sono nette, siete inefficienti, siete stati incapaci, siete il paradiso dei jihadisti. Ieri Giulio Meotti, in maniera tra l'altro molto drammaticamente perspicace, aveva raccontato di Molenbeek, del Belgistan, di questa enclave di Bruxelles che è sempre più fuori controllo dalle autorità, del perché storicamente è nata, di come si è sviluppata. Oggi Giulio Meotti sul Foglio torna e racconta le mille e una Molenbeek d'Europa, racconta che il problema non è solo in Belgio, ma di questa ghettizzazione e radicalizzazione islamica sono piene le città europee, da Birmingham a Malmo, scrive Meotti. C'è il rifiuto dell'assimilazione. In Inghilterra, nella pancia del Londonistan, di cui fanno parte Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, Walton Forest a nord di Londra, Tower Hamlets nella parte orientale della capitale. E poi in Francia sono chiamate zone urbane sensibili. Secondo il Ministero dell'Interno francese sono 751, in queste vivono 5 milioni di musulmani. L'Olanda ha una lista di 40 zone a rischio, il distretto di Colenkiet ad Amsterdam, considerato il problema numero uno, poi a Rotterdam i quartieri di Pendrecht, Echtoed Norden, Bloemhof, Utrecht svetta con la zona di Ondiep, nella capitale L'Aia c'è la Shariwijk, il distretto della Sharia che sorge a Schilderswijk, e mi spiace per le pronunce certamente non corrette, ma... Racconta dunque il Foglio che ci sono mille e una zona dove ci sono zero controlli e enclave, come dire, dove abbiamo chiuso più di un occhio e lasciamo fare. E poi purtroppo succede questo. E ora l'altra domanda che tutti si pongono tra le mie domande è: ma tutto ciò può accadere anche in Italia? Renzi ha reagito dicendo: ora l'Europa deve fare un patto comune per la sicurezza, non è il momento dei falchi, ma non è neanche il momento delle colombe, è il momento della calma, in qualche modo, dice Renzi. Tra l'altro fa notare Fabio Martini sulla Stampa che ha fatto di tutto per non citare nel suo discorso di 10 minuti la parola guerra, e raccomandandosi anche di evitare reazioni impulsive. Nessun accenno anche alla preoccupazione per la sicurezza delle città italiane, visto che tutto è delegato al Ministero dell'Interno, e noi avremo il Vice Ministro dell'Interno Manzione ospite alle 8:20 per cercare di capire come l'Italia reagisce. Certo, leggere cellule anche in Italia, massima allerta per treni e stazioni, a pagina 13 del Corriere della Sera, non rassicura. Come non rassicura, leggo questo articolo, poi ce ne sono migliaia di altri, ma insomma ho fatto una selezione degli articoli dedicati a questo tema. Non rassicura ciò che Fabio Tonacci racconta su Repubblica, pagina 11. Sentite qui: è un fratello, aiutatelo. È sbarcato, per la prima volta in Italia si è scoperto con un lascia passare rilasciato dall'ISIS, un siriano con un barcone a Pozzallo. Per carità, adesso non dite le solite cose: vedete, arrivano coi barconi. Come non dite: non possono arrivare coi barconi. In realtà uno, questo, è arrivato, è stato beccato, fortunatamente. Come si chiama? Murad El Ghazawi. È sbarcato a Pozzallo e aveva un passaporto rilasciato dall'ISIS, la stessa intelligence italiana dice la prima volta che vediamo una cosa del genere. In questo passaporto c'era scritto: vi informiamo che il nominato fratello Murad El Ghazawi ha partecipato al corso di redenzione e lo ha superato con livello buono. Pertanto rilasciamo questo titolo che dimostra che non è non credente. E questo titolo vieta la sua lapidazione, crocifissione o sodomia. Timbro, stato del califfo. Validità, 3 mesi. Evidentemente è un lascia passare per muoversi in Europa, contando sull'appoggio dei musulmani, che secondo il califfato sono buoni musulmani secondo le regole del califfato, cioè sterminarci. Questo lo scrive Repubblica. Oh, Mauro Meazza, è un buongiorno anche a te, perché buongiorno, buongiorno per tenacia più che per convinzione. Allora, anche sul Sole 24 Ore, naturalmente, molte pagine sugli attentati a Bruxelles. Ti segnalo un paio di approfondimenti nostri, come appunto la decisione della Banca Centrale Europea e quindi una sorta di tenuta monetaria per l'Europa, un momento di unità se non altro nell'Europa. Si discute oggi molto se ci sia o meno un'azione unitaria, e poi invece i dubbi su Schengen, perché come sai il trattato di Schengen, di fronte a questi eventi e alla pressione anche dei migranti, è messo fortemente in discussione. Queste due analisi tra le molte che trovi oggi su Sole 24 Ore. E poi, in uno sforzo di normalità, ti vorrei segnalare un paio di cose comunque importanti oggi con il Sole 24 Ore, 16 pagine di approfondimento sui maxi ammortamenti, cioè sullo sconto fiscale per gli investimenti, 140% rispetto all'ammortamento, quindi importante soprattutto per gli investimenti aziendali. Mm-hmm. E poi questo annuncio di proroga del patent box che trovi in Norme e Tributi, così come anche troverai su Norme e Tributi che sta ripartendo il disegno di legge sulla concorrenza e si pensa a una estensione generalizzata a tutte le auto della scatola nera. Ecco, ho citato questa notizia in modo da concludere, diciamo, molto in tono minore con l'abituale saluto. Traffico. Alessandro Milan, la polenta e rosei dell'informazione. Eccoci qui. Allora, intanto io do il numero di telefono, perché dalle ore 8, non telefonate adesso per cortesia, i centralini sono aperti, 800 24 0024. E daremo anche possibilità a tutti voi di dire cosa pensate. Se ci seguite anche dal Belgio, magari siete a Bruxelles, scriveteci al 349-238-6666 se volete intervenire con il vostro numero di telefono, se volete raccontarci come si è svegliata a Bruxelles questa mattina. Noi siamo qui. Allora, vogliamo parlare anche d'altro sui giornali? Timidamente si affacciano anche pagine di altre cose, ovviamente. Beh, intanto a cominciare dallo storico viaggio di Obama a Cuba, nell'isola cubana. Ieri Obama ha incontrato, sfidando Raul Castro, come raccontano i giornali, i dissidenti. Li ha anche lodati. Tra l'altro, come racconta Federico Rampini a pagina 16 di Repubblica, Raul Castro non vuole sentire. Quando Barack Obama, nel suo discorso pubblico al Teatro Nazionale, comincia a parlare di diritti umani, il presidente cubano, nel palco d'onore, si gira e comincia a chiacchierare col suo ministro degli esteri, quasi un'ostentazione di indifferenza. Ma poi Obama, nell'ambasciata americana, incontra i dissidenti, 13 elencati dalla diplomazia americana, e smentisce, insomma, quello che Raul Castro aveva detto il giorno prima: non ci sono prigionieri politici a Cuba. Li ha incontrati Obama e ha detto loro: siete qui e avete mostrato coraggio straordinario osando parlare sui problemi che vi stanno più a cuore. Quindi il gesto, l'incontro lo ha fatto Obama. Veniamo alle cose italiane. Beh, c'è la politica, ovviamente, le amministrative. Ci sono però alcuni articoli che mi hanno colpito. Intanto questo: Etruria, risarcite 300 milioni di euro. Lo trovate su tutti i giornali. Il commissario liquidatore di Banca Etruria ha scritto agli ex amministratori indagati per il fallimento dicendo: avete 30 giorni di tempo per trovare 300 milioni di euro, né uno di più né uno di meno, altrimenti cominceranno le azioni legali che potrebbero portare al pignoramento di case, automobili, titoli obbligazionari, terreni, proprietà. È la doccia fredda del commissario liquidatore Giuseppe Santoni di Banca Etruria, l'uomo che, dopo aver studiato i bilanci, si è visto costretto a chiedere nel dicembre scorso il fallimento della Popolare. Ora ha scritto a tutti gli ex amministratori dicendo: dovete trovare i soldi per pagare. A proposito di banche, noi ce ne siamo occupati qui a 24 mattino, se vi ricordate, ospitando la vedova. Si è riaperta ufficialmente, lo sappiamo, l'inchiesta per la morte di David Rossi, 51 anni, capo dell'area comunicazione Montepaschi Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo il volo dalla finestra del suo ufficio. E ora c'è uno sviluppo, e cioè, come racconta Davide Vecchi in una pagina del Fatto Quotidiano, ma la notizia è su tutti i giornali, il PM ha disposto la riesumazione della salma di David Rossi. E ora si indaga per omicidio. Ne avevamo parlato, era la linea della vedova che non ha mai creduto al suicidio di David, e ora c'è uno sviluppo dell'inchiesta sicuramente interessante. Vi segnalo invece questo articolo che ho trovato sulla Stampa, che riguarda una ricercatrice molto importante, senatrice a vita, Elena Cattaneo. Lo racconta Jacopo Iacoboni a pagina 17. Racconta del conflitto di interessi su fondi e ricerca per Elena Cattaneo. Sentite qui, nella legge di stabilità approvata il 22 dicembre scorso c'è un emendamento firmato dai senatori Cattaneo e Zeller che istituisce presso il Ministero della Salute un fondo denominato Progetto Genomi Italia, al quale è assegnata la somma di 15 milioni di euro per 3 anni, sono 45 milioni dunque. L'emendamento firmato dalla Cattaneo prevede l'istituzione di una commissione presso il Ministero che dovrà occuparsi della utilizzazione e della gestione del fondo. Ora la Stampa è in grado di rivelare il documento con cui il 14 marzo il ministro della Salute Lorenzin ha nominato questa commissione. E in commissione vi compare anche Elena Cattaneo. Cioè, scrive la Stampa, in questa storia lei ha due ruoli. Ha firmato l'emendamento che stanzia i fondi, 45 milioni, ed è nominata nella commissione che deciderà l'utilizzo di quei fondi. Non solo, è uno dei 6 scienziati in un importante centro di ricerca, l'Istituto Nazionale di Genomica Molecolare, che ha tutti i titoli per ricevere parte di quei fondi. Una situazione, scrive la Stampa, secondo i critici, di conflitto di interessi. Beh, interessante questo articolo trovato solo sulla Stampa e riguarda la senatrice Elena Cattaneo e questi fondi della ricerca. Mentre attenzione, udite udite, è ufficiale, Luigi Ferrarella lo conferma, pagina 21 del Corriere della Sera, Silvio Berlusconi continua a pagare con un prestito infruttifero da 15.000 euro al mese, 15.000 euro al mese, Peter Mescapè, ho detto 15.000 euro al mese, Nicole Minetti, ricordate Nicole Minetti, oggi Luigi Ferrarella lo racconta, è tutto messo nero su bianco dai conti di Berlusconi, nel processo che lo vede imputato di corruzione di testimoni, e si vede che dà dei soldi un po' qua e là, 130.000 euro in 3 bonifici ad Alessandra Sorcinelli, 52.000 euro per le spese di soggiorno di Barbara Guerra e Ioana Visan in un resort, 52.000 euro in un resort. E che hanno fatto in un resort? 50, quanto sono state in un resort? E poi anche prestiti infruttiferi a Vittoria Brambilla, 405.000 euro, interpellata ieri la deputata conferma trattarsi di soldi coi quali nel 2015 ha fatto fronte a 2 cause legali. Prestiti anche ad Alfredo Meocci, già deputato PDL, ex membro Commissione Vigilanza Rai, prestito da 65.000 euro, contattato dal Corriere dice sì, ho chiesto a soldi a Berlusconi per motivi personali, e così 15.000 euro a Nicole Minetti al mese, anche attualmente. Beh, è un po' il tuo stipendio, Peter Mescapè. Di più guadagni? Ah, però fare il tecnico a Radio 24, provvedere subito. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina del giornale, Andrea Cuomo, liscia, o gassata, addio, anche l'acqua si degusta, ora l'acqua si degusta, coi sommelier sulla temperatura, la salinità, il bicchiere come deve essere, tutto per capire che acqua vuoi, Peter Mescapè? Io c'ho una bottiglietta qui, tu che acqua vorresti? Ma chi se ne frega!